X24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Qui siamo nella ricca e opulenta zona dell'Eur. In pieno giorno ci sono le prostitute in mezzo ai prati. Tutte le pompe di benzina sono piene di queste qua. E questo urina davanti a tutti, non gliene frega niente. Questo vende i panini perché tutta la notte è frequentato da gente che viene per travestiti. Perché oltre ai panini gli dovete bere gli alcolici che non potrebbe. Ci sono delle serie che qui in mezzo a sta stradina laterale ce ne sono 15, 20. Per cui se tu casualmente entri lì perché magari vuoi evitare il semaforo, succede che alla fine non passi più perché c'è tutta sta gente per strada che contratta, che vedi che dalle macchine allungano le mani. Questi posti sono equamente divisi tra chi vende corpi e chi vende droga. Coloro che gestiscono la prostituzione, guarda, qui c'è tutta gente, al femminile, coloro che gestiscono queste, stanno in guerra con questi che li vogliono mandare via, non vogliono più il transessuale o il travestito che gli toglie i clienti. Quelli mandano i bambini a controllare queste signorine qui, gli contano i preservativi per sapere con quante volte hanno i rapporti, per cui devono portare un numero di soldi che equivale al numero di preservativi usati. Hanno questi rapporti sessuali in ogni dove, dietro all'albero, sotto le finestre delle persone. Consumano dietro i secchioni, un circo di carne, tappeti di carne umana nudi. E la cosa grave è che spesso io vedo la cosiddetta volante, la pattuglia di polizia, che si intrattiene. Io sono favorevole alla zonizzazione, cioè all'avere delle zone in cui possa esserci la prostituzione e altre in cui possa invece essere limitata o proibita. Ecco, era un'intervista a un tassista dell'Euro realizzata da Giovanna Corsetti. Andrea Santoro, presidente del nono municipio dell'Euro. Buongiorno. Buongiorno. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Abbiamo sentito il sindaco Marino che in primavera ha lanciato l'idea dello zoning. Ecco, lei si aspetta il sostegno alla manifestazione di oggi pomeriggio? Io mi aspetto che i cittadini dell'Eur manifesteranno perché vorranno più decoro all'interno del loro quartiere, una cosa legittima, e un presidente di municipio deve ascoltare gli abitanti, cittadini. Certo. Esatto. Ecco, oggi pomeriggio, appunto, nelle strade dell'Euro si terrà una manifestazione per protestare contro il degrado e la prostituzione. Lei è preoccupato, ha paura di infiltrazioni, di qualcosa? Io sono preoccupato che queste manifestazioni possano essere strumentalizzate da movimenti o forze politiche, però io so che i cittadini dell'Euro sono persone per bene che vogliono manifestare soltanto per dire attenzione, qui c'è un rischio degrado troppo forte, istituzioni ecco, intervenite. Ma come è stata accolta la proposta dello zoning dai residenti dell'Euro? C'è un dibattito molto forte perché ci sono cittadini che vivono purtroppo H24 con questo fenomeno e cittadini che sono preoccupati perché quando si parla di questo argomento ovviamente ci si rigidisce. Ecco, ma le strade adatte le avete individuate? Le stiamo individuando e sono quelle che dove non ci saranno abitazioni perché dobbiamo finirla, diciamo, con questo fenomeno sotto casa e dentro i giardini delle case delle persone. Come abbiamo sentito, infatti, ma come pensate poi di poter far rispettare i confini delle zone che eventualmente riuscite a definire? Quando faremo 500 euro di multa ai clienti che vorranno comunque andare nelle zone dove sono proibite, questo fenomeno terminerà. E le multe chi gliele fa? La polizia locale sicuramente, con il lavoro delle forze dell'ordine. Senta, e l'idea, com'è nata l'idea di destinare delle aree specifiche alla prostituzione all'interno dell'Euro? È nata perché... È una sua idea? Perché o si aspettava per l'ennesimo anno, diciamo, una legge del Parlamento che non arriverà mai, oppure si provava, un presidente di municipio provava a trovare una soluzione. Fondi necessari dove li trova? Quando ci sono questi problemi i fondi si trovano e si sono sempre trovati. Siccome questo è un problema sociale che riguarda i cittadini e le prostitute, i fondi si troveranno. Ecco, ma il fatto di creare poi alla fine, in definitiva, dei veri e propri quartieri a luci rosse all'interno del suo municipio la spaventa? L'Euro è già un quartiere a luci rosse, purtroppo. Quando 18 strade su 30 sono interessate da questo fenomeno, vuol dire che quello è già. Noi vogliamo evitare che continui ad essere un quartiere di questo tipo. E quindi questa manifestazione non le fa paura? No, penso che sia una cosa legittima, ripeto, spero soltanto che non venga strumentalizzata, perché è giusto che le persone, che i cittadini di questa città possano manifestare un disagio. E dottor Santoro, un'ultima cosa, ma a che punto è in definitiva il progetto? È ancora embrionale oppure già? Io presentarlo entro fine anno, così sarà, stiamo lavorando ogni giorno e stiamo cercando di trovare la soluzione migliore ma per tutti. Per renderlo attivo dall'anno prossimo, da gennaio? Dal 2015, sì, dall'inizio dell'anno. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Ecco, Claudio Donadelli è responsabile invece degli interventi sulla prostituzione e sulla tratta per il comune di Venezia, dove la zonizzazione è già in vigore da alcuni anni. Dottor Donadelli, ma lo zoning esattamente com'è? Lo zoning intanto non è il quartiere a luci rosse, diciamo che è il rapporto che il fenomeno della prostituzione e l'impatto che ha sui contesti territoriali. Ecco, cioè, ma in concreto come funziona la zonizzazione? Intanto bisogna individuare le aree ad alto conflitto tra cittadini e chi si prostituisce e delle aree a bassa conflittualità. Tecnicamente bisognerebbe fare in modo che l'attività prostitutiva di strada, perché lo zoning prevede, certo, una regolamentazione della prostituzione di strada, dalle aree ad alta conflittualità ad aree a bassa conflittualità. Ma da quanti anni è in vigore lo zoning nel comune di Venezia? Ma è iniziato a lavorare per lo zoning dagli anni 2000. Poi ci sono stati tutta una serie di atti fino ad arrivare al 2007 a dei protocolli operativi tra l'azione sociale e l'azione di polizia, perché la zonizzazione non è altro che un raccordo tra queste azioni all'interno di un'unica strategia per rendere più vivibili i territori. Come si fa a stabilire, a delimitare una zona per la prostituzione? Allora, non avendo una legislazione appunto nazionale che la regolamenta, la prima cosa è per esempio introdurre nel regolamento di polizia municipale quali sono, diciamo, le aree nel quale verranno sanzionate le persone che andranno a comprare sesso a pagamento, in questo caso i clienti. Ecco, ma quali sono le difficoltà maggiori? Le difficoltà maggiori sono quelle legate al fatto che prima di tutto bisogna avere delle risorse, soprattutto per pagare, diciamo, anche gli straordinari, perché questi lavori, per esempio, di effettuare le sanzioni vanno fatte di notte, eccetera. Quindi bisogna avere delle risorse per le azioni di tipo repressivo e le risorse per le azioni di tipo sociale. Ecco, ma le prostitute? Ecco, lì c'è un altro problema, perché molto spesso le persone che si prostituiscono in strada sono soggette a controllo dalle reti di sfruttamento. È chiaro che, per esempio, se la popolazione con cui tu vuoi lavorare o che è presente nel tuo quartiere è, per esempio, legata al target transessuale, no? Sì. Che sono meno soggetti ad reti di sfruttamento e quindi più autodeterminate, è più facile lavorare per la zonizzazione, anche perché bisogna lavorare, diciamo, con il target. È chiaro che diventa più difficile con, per esempio, dei target magari dell'est europeo, dove dietro chi decide loro sono le organizzazioni criminali. Perché bisognerebbe trattare con le organizzazioni criminali? No, non si tratta con le organizzazioni criminali, assolutamente. Allora, no, si mettono in piedi di tutti quegli interventi che vadano a sfavorire la prostituzione. Ecco, ma in quei luoghi. Tutti quegli interventi, che vuol dire? Cos'è in concreto? Ma semplicemente, allora, nel momento in cui si fa una parte della città, si individuano e si decide dove D'accordo, e allora che interventi si fanno? Poi si deve individuare con i cittadini le aree che bisogna spostare le persone che si prostituiscono. Va bene, d'accordo. E bisogna riqualificare quei posti. Riqualificare cosa vuol dire? Riqualificare vuol dire che bisogna dare tutti quegli interventi che mettano in sicurezza le persone che si prostituiscono in quel luogo. Ecco, dottor Donadel, il bilancio rispetto all'esperienza del Comune di Venezia è un bilancio positivo? Come ho detto, luci e ombre. Parliamo delle luci. Ma le luci sono così, da quando noi abbiamo iniziato a lavorare in questa città c'erano praticamente 165 presenze giornaliere, cioè era la media giornaliera di chi si prostituiva sulla strada. Sì. Attualmente siamo a 65 persone. Ecco, il bilancio negativo invece? Le ombre, diciamo che purtroppo per alcune aree territoriali non siamo riusciti a individuare, perché è un problema anche di conformazione della città, lo spostamento su alcuni da alcuni territori, però diciamo così che i territori a maggior conflitto sono stati comunque, hanno avuto dei benefici. Un'ultima cosa, dottor Donadelli, in pratica, sì, se ho capito, lo zoning è un tentativo costoso di aggirare un vuoto normativo, è così? Ma diciamo sì, se lo vediamo da questo punto di vista, non è costoso se lo si integra all'interno, diciamo, di politiche territoriali rispetto al fenomeno sociale, perché poi dopo i costi sanitari, i costi da parte delle azioni repressive, le problematiche legate ai conflitti sulla cittadinanza, se tu li metti tutti insieme, sì, hanno dei costi importanti. Se si pensa appunto a una gestione di questo fenomeno attraverso queste politiche che mettono insieme l'azione sociale di prevenzione alla salute, la lotta contro lo sfruttamento, non teniamo presente che ogni persona che si prostituisce crea, diciamo, valore. Senta, sì, ma dottor Donadella, ma in Italia è vietata la prostituzione? Assolutamente no. No, e che cosa è vietato? È vietato, chiaramente, l'ho già detto prima, lo sfruttamento, questa è la cosa che è vietato, lo sfruttamento, sì, il favoreggiamento, l'induzione, e sono questo è essenzialmente le cose che sono vietate. Le altre cose bisogna realizzarle con degli interventi, perché stiamo parlando di un fenomeno sociale, la questione, certo, della prevenzione, per esempio della salute, pensi tuttora che i clienti continuano a chiedere prestazioni non protette, tutto questo che poi che ricadute ha dal punto di vista di malattie, di infezione, diciamo, sulla nostra popolazione, perché, certo, ricordiamoci che la prostituzione è sempre formata da una domanda e da un'offerta, e la domanda siamo noi. Mario, ma sì, è lo zoning che è una soluzione o no, un'ipocrisia? No, è una grandiosa ipocrisia. Sono stupito anche di come si sia alimentata tutta questa. È una soluzione che non c'è. Cioè, qua bisogna mettere sul campo la vera domanda, quella che tutti devono farsi. Bisogna riaprire le case chiuse o no? Legalizzare la prostituzione o no? Questo è il dilemma. E tu, Pietrangelo, che dici? La vera domanda è questa, come dice Mario Secchi, anche perché se vogliamo fare un parallelo, quando noi ci incamminiamo per strada nei marciapiedi e con la coda dell'occhio cogliamo le scene, per esempio, dei pensionati, delle vecchine che vanno a dare i loro soldi allo Stato che si fa baro e croupier con nelle sale gioco, corrisponde esattamente a chi invece va per, come c'era quella canzone di Battiato, uomini innocenti dagli istinti un po' bestiali che cercano l'amore dentro i parchi e lungo i viali. E allora bisogna capire se lo Stato, oltre che baro e croupier, debba continuare invece ad essere ipocrita. Scusa, dimmi. I valori immobiliari delle zone dove tu fai questi, diciamo, simili quartieri a luci rosse, i bambini. Antonella da Roma abbiamo. Antonella, signora, buongiorno. Buongiorno. Mi dica. Ecco, sono felice di aver preso la linea, perché la mia indignazione è tale verso questo argomento che tutti i giorni ci avveleniamo con questo problema, perché io abito sulla Tiberina, ma anche quella è una zona, e spero che vengano anche qua a fare uno sciopero, perché veramente dobbiamo subire, e oltretutto delle cose atroci, perché la Tiberina, se voi la percorrete, è tutta una croce, ci muore un sacco di gente. E quindi lei cosa proporrebbe, signora? Due volte ho rischiato di mettere sotto queste che oltretutto anche con spavalderia ballano nude in mezzo alla strada, te le trovi all'improvviso davanti, stanno 5 dietro. E la sua soluzione, signora, quale sarebbe? senta, la soluzione la devono trovare chi ci governa e chi ci comanda. Innanzitutto l'unica soluzione è toglierle dalle strade, perché io pago tutto quanto quello che devo pagare. Va bene. La strada che faccio tutte le mattine mi svalorizza la casa. Certo. Mette, io non posso prendere l'autobus più, perché lì alla fermata dell'autobus ce ne stanno almeno 7. Cioè, ma quella è la ferma, noi abbiamo solo quella di fermata dell'autobus che abitiamo fuori Roma, oltre che non abbiamo niente che ci porta fuori. Speriamo che Marino stia sentendo, grazie signora. 800 24 00 24 349 238 6666 l'SMS Alessandro Scarpello, che è il dirigente della sezione investigativa sulla criminalità straniera e anche sulla prostituzione, la ex Buoncostume, insomma. Dottor Scarpello, in Italia la prostituzione non è vietata, l'abbiamo detto, ma un cliente che si ferma da una prostituta è sanzionabile? Diciamo che di base il cliente che si ferma da una prostituta non è sanzionabile, perché il fatto appunto di andare con una prostituta in sé non è un reato. Può diventare reato nel momento in cui si compiono degli atti osceni e quindi in questo caso viene sanzionato. Diverso è invece se, a seconda appunto del posto in cui si verifica, il comune ha previsto delle ordinanze e quindi andare con una prostituta viene sanzionato come un intralcio alla circolazione, come utilizzando diciamo il scamotaggio, ecco, del codice della strada. Ok, ecco dottor Scarpello, la prostituzione in strada appunto è un fenomeno che interessa prevalentemente le straniere oramai o no? Sì, nel 95 forse più per cento di persone appunto che si prostituiscono per strada, secondo la nostra esperienza, sono straniere. Le italiane veramente che si prostituiscono in strada è sono un pochissime. Numero residuo esiguo che può essere derivante o da una situazione appunto di povertà, soprattutto certo, legata spesso alla tossicodipendenza sì. Oppure vecchie insomma prostitute che continuano ancora l'attività ma in pochissimi posti. Che cos'è in concreto la tratta? È un grave fenomeno criminale, comprende varie condotte che possono andare dalla cattura al sequestro al reclutamento di donne, soprattutto finalizzate quindi al trasporto, diciamo che incide, incide notevolmente diciamo su quello che è il reato di base, che è la riduzione in schiavitù, che può essere fatta con violenza e minaccia, ma finalizzata al trasferimento o all'interno di una stessa nazione o molto più frequentemente tra nazioni. Noi abbiamo il tipico esempio appunto quello delle nigeriane, cioè donne che vengono reclutate in patria soprattutto con a volte la connivenza dei familiari, che vengono trasferite attraverso dei viaggi lunghissimi, vengono proprio stipate come delle vere e proprie merci in quelle che vengono definite le connection house, delle case appunto dove vengono fermate il tempo di organizzare quelle famose tratte in barconi che dopo arrivano appunto sulle coste siciliane per lo più. Dottor Scarpello, ma quindi è la criminalità organizzata che gestisce la prostituzione di strada? Sì, sostanzialmente quella di strada è gestita dalla criminalità organizzata. Come fanno gli sfruttatori a evitare ribellioni, denunce, fughe da parte delle prostitute? Con la violenza? Dipende molto dal tipo e dalla nazionalità. Per quanto riguarda la criminalità diciamo dell'est, molto spesso utilizza due tipologie. O quel famoso rapporto di soggezione psicologica derivante anche da rapporti amorosi diciamo tra lo sfruttatore e spesso la fidanzata, che viene sfruttata e viene mandata a prostituirsi, a controllare altre donne. Ma molto spesso invece ci sono fenomeni di non solo minaccia, ma che si concretizzano anche in veri e propri episodi di violenza nei confronti delle donne. Ecco, ma la crisi economica ha influito sul mercato del sesso a pagamento o no? Non tanto per quanto riguarda la domanda, che comunque è sempre altissima e si trovano sempre le risorse per i clienti. Può avere influito per quanto riguarda invece il prezzo, soprattutto per quanto riguarda la prostituzione negli appartamenti, che abbiamo registrato una diminuzione appunto del prezzo della prestazione. Ma è possibile, dottor Scarpello, individuare il profilo del cliente medio oppure no? Questo è praticamente impossibile, nel senso molto difficile, perché diciamo che da una fase adolescenziale fino a una fase quasi senile ci sono varie tipologie di ceti e provenienze, insomma. Sì. Noi riscontriamo maggiormente tra i 25 e i 40-45 anni, però insomma di tutte tutti le classi tipi, sociali, di tutte le età. Senta, dottor Scarpello, ma le ordinanze antiprostituzione molto propagandate, emanate a Roma, che esiti hanno prodotto? Ma noi abbiamo registrato sicuramente nel breve periodo una notevole riduzione del fenomeno, anche perché soprattutto i clienti venivano spaventati insomma, dal fatto di essere fermati e quindi chiaramente di rendere pubblica la cosa. Diciamo che sul lungo periodo un po' il fatto che le prostitute hanno capito effettivamente le multe difficilmente da loro venivano pagate, un po' il fatto che queste ordinanze richiedono un notevole sforzo da parte del comune attraverso appunto la polizia municipale di presenziare il territorio a lungo andare, diciamo, rallentando i controlli sicuramente, mentre noi avevamo registrato un fenomeno di allontanamento dal centro prevalentemente per le periferie o addirittura per comuni limitrofi alla capitale, ora abbiamo registrato di nuovo un rientro. Presenza, sì. Ecco, ma allora dottor Scarpello, in questo quadro lei crede che lo zoning possa rappresentare una soluzione al problema della prostituzione in strada oppure no? Come appunto forse dell'ordine, ma non sono valutazioni di nostra competenza, sono certo, più diciamo ma lei cosa ne pensa? Noi possiamo dire che lo zoning, se si intende di favorire appunto la prostituzione in una determinata zona, non incide sul fenomeno dello sfruttamento, ecco, che è quello veramente il reato. Ma per ottenere eventualmente lo spostamento, in ogni caso, delle prostitute nelle zone che sono state individuate, è necessario trattare con le organizzazioni criminali? No, assolutamente, noi non trattiamo in alcun modo con le organizzazioni criminali. Però se sono loro che controllano la prostituzione. Lo so, però quello assolutamente no, come avviene spesso anche per quanto riguarda il fenomeno dello spaccio, si può incidere sulla dislocazione appunto delle cose solo e esclusivamente attraverso i controlli in una zona appunto piuttosto che in un'altra. Dottor Scarpello, ancora una cosa, ma non c'è il rischio che nel momento in cui ci sia lo zoning si chieda alle forze dell'ordine una certa tolleranza in alcune zone e no in altre zone? No, il problema della tolleranza in questo caso non si pone, perché noi andiamo dietro quello che è il fenomeno, che quindi certo, lo sfruttamento che si può realizzare sia all'interno dello zoning sia all'esterno. Quello è un discorso invece appunto di concentrare i controlli in una zona piuttosto che in un'altra, come dicevamo, per garantire appunto il controllo. Nessuno ci assicura che una ragazza che sta all'interno della zona predisposta in realtà non abbia a casa il soggetto che si prende appunto la maggior parte dei guadagni della ragazza, e noi andiamo a colpire quel tipo di criminalità, quel tipo di sfruttamento. Con quanto successo? Noi abbiamo riscontrato un notevole successo, però a causa della vastità del territorio noi riscontriamo piccoli gruppi criminali che gestiscono piccoli tratti di strada con all'interno 3, 4, 5, 10, 15 ragazze. Ci concentriamo appunto su alcune zone, dopo per forza di cose non possiamo perseguire tutti in una volta, certo, con le risorse limitate, però quello che si riesce a fare loro si riescono a fare molto bene, c'è molto rapporto di collaborazione soprattutto per esempio con la polizia rumena, con la polizia albanese, e si riescono a fare questi lavori anche a rintracciare soggetti che magari sono scappati dal territorio nazionale, anche che hanno fatto rientro in patria. Mix 24. Più vedo te, più ascolto te e più ti amo. Ogni parola che dici t'amo un po' di più. Parole che sono per te sempre le stesse, ed io lo so che parlerai sempre così. Più vedo te, più ascolto te e più ti amo. Ogni parola che dici t'amo un po' di più. È successo questo, caro Giovanni. Io ero immerso nei miei pensieri oggi in metropolitana quando, alzando lo sguardo di fronte a me, ho visto una scena che sembrava più un miracolo che un fatto di vita, perché c'erano davanti a me un ragazzo, 19 anni, e lei forse 17, e ho notato questo fatto, che si guardavano con le labbra, si ascoltavano con gli occhi, respiravano solo quei sorrisi, e poi mi sono avvicinate, ogni parola era un racconto nuovo e non erano mai gli stessi, in ogni istante cambiavano e non dicevano, come dice la canzone di Franco Battiato, non dicevano mai parole vane, ed era uno spettacolo di perfezione, perché in quello stesso istante erano lì e hanno cancellato tutti. parole che sono per me sempre diverse. Quando sarà la voce tua che le dirà. Beh, Mario, grande, è un battiato in forma questo. Informissimo. Che facciamo? Andiamo con le bolle, va? Torniamo alla realtà. So yes. That would be great, I think, to help glue this thing and have the UN help glue it. And, you know, fuck the EU. Wow, fuck the EU. Questa era Victoria Nuland. Era una telefonata intercettata dai russi, credo, così sono bravini a fare queste cose. E insomma, si parlava della crisi in Ucraina e la traduzione la facciamo per dovere di cronaca, era che si fotta l'Europa, esatto. Insomma, lo facciamo noi a Washington. Bene, e perché dico questo? Perché a Tartu, in Estonia, a 50 km dal confine della Russia, si terrà il più grosso wargame digitale degli ultimi tempi. Sono coinvolte 670 militari e civili che dovranno rispondere agli attacchi informatici, ecco perché abbiamo dato l'intercettazione, di un team avversario che insomma deve cercare di fargli il sotto, come si dice in gergo. Ora, chissà se la NATO, caro Giovanni, riuscirà a non farsi beccare più con il sorcio in bocca. In ogni caso, eccolo qua. Ci mancava, eh? Erano un po' di giorni. Beh, è un po' che non c'eri, perché avevi altro da fare, quindi certo, naturalmente. Chiaramente. Io ho sempre da fare. Sì. Mettiamo l'inno europeo, giusto per bilanciare, per par condicio, vai. Butta fuoco, non ti piace? Sì. No, no, non gli piace. Non gli piace. Confessa. Lo dice, no. Era immaginabile. Allora, Europa. Che cosa sta succedendo? Ci sono delle cose meravigliose in giro. Allora, nel Regno Unito, a Rochester, UKIP ha vinto le elezioni alla grandissima. I conservatori, i Lib Dem, il Labour sono tutti crollati di fatto. Questo è un campanello d'allarme enorme, ovviamente, per le elezioni poi generali per il Parlamento inglese, e quindi David Cameron in realtà non sa più che pesci pigliare, cioè che politica adottare, una politica sempre più conservatrice nei confronti dell'Europa. Possibile, però poi chiudi veramente il Regno Unito a tutto. Sta di fatto che UKIP va molto forte, vediamo che cosa porterà poi a casa. In Germania è molto interessante invece, passiamo all'Europa continentale in questo caso, Angela Merkel ha un alleato che si chiama Günther Oettinger, che è un cristiano democratico, che è commissario UE al digitale, che dice che non ce n'è, Hollande non ce la farà mai a fare le riforme. Questo è un segnale chiaro che l'asse Parigi-Berlino, quello classico sul quale sì, si è retta tutta l'Europa, non funziona più. E in Italia aspettiamo ancora che si mettano d'accordo per fare l'italico. Siamo come la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina, e noi vogliamo, elettori, il bagno alla turca! Salamino, Pietrangelo. Paga e taci, per dirla con Sara Tardelli. Paga, sei alle citazioni colte. Alle citazioni dovute. Bravo. Paga, taci e tari. Un interessante servizio di Paolo Bracalini oggi sul Giornale mette a nudo un fatto che è un più che fatto. I terremotati dei comuni emiliani sono sommersi dalle tasse. La cosa è complicata perché le vittime del sisma 2012 pagano l'IMU pure sulle case inagibili. E quindi tasi, tari, IMU e cartelle INPS per i mancati versamenti da aziende costrette a fermarsi. In aggiunta pure le cartelle Equitalia con arretrati e interessi da pagare. A Mirandola, per esempio, ci sono ancora 300 famiglie nei container di lamiera. E anche a loro, così come leggo, sta arrivando la Tari, ad altri l'Imu per la casa che non abitano. Insomma, i 40 comuni terremotati valgono il 2% del prodotto interno lordo nazionale e sono 6 miliardi di tasse da succhiare. La situazione è veramente, insomma, degna di, si può dire la parola? Di robusta incazzatura. Aia, perché si aggiunge il fatto che i fondi regionali non arrivano alle imprese agricole perché? Perché semplice, risultano non in regola con i versamenti, e quindi io vorrei dedicare agli emiliani una canzone molto terrona che però può servire. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, piglia un bastone e tira fuori le reti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, piglia un bastone e tira fuori le reti. Tutti lamenti, ma che ti lamenti, pigliano un bastone e tira fuori le reti. Oggi parliamo molto di quartieri e di Roma, e dopo Tor Sapienza ci sono degli altri quartieri che cercano di riqualificare il territorio con delle iniziative di ogni tipo, anche iniziative culturali. È il caso del Quadraro, che è un quartiere simbolo dell'antifascismo a Roma, che con le lezioni di storia tenute nel parco di Centocelle, un parco degradato e occupato visivamente dagli sfasciacarrozze, cerca di riportare conoscenza e cultura anche lì. Salvatore Salmeri, che è membro di Punto di Svita, che è l'associazione che si occupa di riqualificare quell'area anche con le lezioni di storia, però quel quartiere, che è il parco di Centocelle, ha sulle rovine delle ville romane gli sfasciacarrozze abusivi che non si riescono a muovere. È così? Assolutamente sì, ce ne sono circa una ventina ed è previsto un investimento, aprirà un cantiere nelle prossime settimane su un versante dove ce ne sono quattro e dove le istituzioni, su grande richiesta da parte del territorio, dovrebbero in qualche modo per la prima volta dopo 40 anni delocalizzare, ecco, questi quattro sfasciacarrozze. Ma nessuno ha finanziato opere di riqualificazione? Assolutamente sì, invece, perché sono stati stanziati circa 3 milioni di euro. E sono stati spesi? Ancora no, il cantiere deve aprire, ma non solo, recentemente la sovrintendenza ha previsto un finanziamento di 1 milione di euro per il recupero delle ville che stanno dentro il parco archeologico. Vabbè, bisognerà togliere prima gli sfasciacarrozze, ma con le lezioni di storia che voi fate, volete riqualificare il quartiere in che senso? Con le lezioni di storia vogliamo porre questo argomento nel dibattito cittadino. La questione degli sfasciacarrozze è una questione cittadina, in quanto la politica, la regione, il comune non hanno avuto mai il coraggio in questi 40 anni di affrontare il problema e di regolamentarlo. Ecco, ma l'appuntamento allora qual è? L'appuntamento è domenica 23 novembre alle ore 11 al Circolo Arca, in via degli Angeli 146. Se volete sostenere questa nostra battaglia, andate sulla pagina Facebook Parco di Centocelle Libero e cliccate mi piace e insomma ci aiutate a sostenere in questo modo. È una cosa da fare. Mix 24. Pietrangelo il canzoniere arriva. Non so se tra roccia il tuo pallido viso m'apparve, o sorriso di lontananze ignote fosti. La china eburnea, fronte fulgente, o giovine suora della Gioconda, o delle primavere spente, per i tuoi mitici pallori, o regina, adolescente. Dovineranno 800 24 00 24, 349 238 6666, l'SMS. Indovineranno anche perché c'è un effetto di disintossicazione da Benigni, quindi capisci, già do bene, un aiuto, cioè, già do un aiuto. Senti, ma intanto Mario, la tua bolla del weekend? Sì, è questa, è un omaggio a Mike Nichols, un grandissimo regista, è morto a 83 anni, ha vinto tutto, l'Oscar, Tony, Emmy, Grammy, tutto. Questo è un pezzo di un interpretazione memorabile, il film è La guerra di Charlie Wilson, l'attore è Philip Seymour Hoffman e interpreta Gust, la spia. Sentite qui. Claire George ha detto che venivi qui a chiedere scusa. No, io dovevo venire perché tu chiedessi scusa a me. Secondo chi? Claire George. Mi spacchi la vetrata e io dovrei scusarmi. Il posto Helsinki era mio. Il posto Helsinki non era tuo. Mi è stato promesso. Non da me. Sono nella compagnia da 24 anni. Sono stato piazzato in Grecia per 15. Papandreou avrebbe vinto le elezioni se non avesse aiutato la giunta a farlo prigioniero. Ho consigliato e armato l'esercito ellenico. Ho neutralizzato campioni del comunismo. Ho passato gli ultimi 3 anni a imparare il finlandese. Che ti serve a tanto qui in Virginia? E sono stato anche capo marmotta. Sei rozzo. Come hai detto? Per Helsinki mi serve qualcuno con capacità diplomatica, tu non ne hai. Ma ti voglio chiedere, i 3.000 agenti che Turner ha licenziato è perché anche loro mancavano di capacità diplomatiche? Ti riferisci all'ammiraglio Stansfield Turner? Sì, o per Turner non era una buona idea avere spie che sanno parlare la stessa lingua della gente che spiano, cazzo! Beh, mi dispiace, ma non puoi biasimare il direttore per aver discusso la lealtà verso l'America di persone che a stento sono americane, per dirne una. Sì, vorrei prendere un attimo per esaminare i vari modi in cui sei un escremento. Cazzo, fuori dal mio ufficio! Sì, signore. Prima che ti distrugga la carriera, stronzo! Sì, signore. Porca miseria! Beh, cosa vuol dire fare dei dialoghi, eh? Fantastico. Dialoghi veri, ecco. La oggi, scrittura. Oggi, come tutti i venerdì, è il momento della posta del cuore. Scriveteci a mix24@radio24.it. Mia figlia ha 17 anni e da circa un anno frequenta un ragazzo che a poco mi è sembrato naturale accogliere in casa. Rimaneva a dormire da noi il sabato, si è fermato anche al mare quest'estate. Meglio che facessero sesso nella stanza accanto piuttosto che chissà dove. Tanto lo avrebbero fatto comunque, mi dicevo. Finché lui ha dimenticato il cellulare e io mi sono ritrovata davanti alle foto inviate dalle amiche di mia figlia in completo di pizzo. Niente in confronto agli autoscatti fatti invece con mia figlia durante l'amplesso sullo sfondo della sua cameretta rosa. Ho provato a parlarne con lei e mi ha risposto con il tono sereno davanti a una realtà socialmente accettata: è normale, mamma, è un gioco, lo fanno tutti. Mi sento impotente di fronte a quella sconosciuta che è mia figlia. Ma anche l'eros è cambiato? Ma che c'entrano i selfie erotici, così li chiamano adesso, con il sesso? Sono già vecchia se non lo capisco? Pietrangelo, allora davvero l'eros è cambiato così? Più che cambiato, forse è morto l'eros, perché quello che racconta questa lettera così forte non è un racconto d'eros, è una devastazione. È qualcosa che infrange il rapporto genitore-figli, infrange anche l'idea stessa dell'incontro amoroso ed è un circo di carne che arriva a sfasciare gli equilibri, perfino quelli riservatissimi. Mi pare di ricordare un meccanismo semplice, drammatico, tragico nei 6 personaggi in cerca d'autore, quando un padre si presenta all'uscio, alla porta di una casa d'appuntamenti dove ci sono le prostitute e ad aprire la sua porta c'è la figlia. Ecco, infatti, io provo a rispondere a Francesca, che secondo me ha messo tanta carne al fuoco in questa lettera, il sesso, appunto l'amore, il pudore, il rapporto madre-figlia. E resto sul fatto concreto, cioè la scoperta di foto osè della tua bambina 17enne. Io, per come sono fatta, penso che scandalizzarsi non serva a niente, solo a creare delle distanze siderali tra le persone. Invece penso che serva parlarsi e cercare di capire. E forse dovresti provare a spiegare a tua figlia che dire lo fanno tutti è un po' come rinnegare la sua identità. Perché ognuno di noi è diverso e deve sapere che è speciale, quindi dovrebbe chiedersi con profondità se i gesti e le scelte che fa corrispondono sul serio alla sua personalità. E ti dirò di più, visto che sei così in confidenza con il fidanzato di tua figlia da portartelo in vacanza, affronta la questione anche con lui e non perdere l'occasione di scoprire chi ama tua figlia. Dopo il giornale radio, Marina Milone racconta la storia di Fanfani, realizzata da Alberto Puoti. Intanto, fotoromanza di Gianna Nannini. Se la sera non esci, Thank you.